Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti in costanti sprazzi di bellezza. E poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. La grande bellezza è l'ultimo film di Paolo Sorrentino, film selezionato, che ha partecipato al concorso del Festival di Cannes. È un film dedicato alla città di Roma. Un'infinità di film hanno raccontato Roma, Roma vista dai romani, Roma vista da coloro che da qualsiasi città dell'Italia vengono a Roma e a Roma non cercano, trovano o non trovano fortuna. In questo caso il protagonista è Giep Gambardella, è uno scrittore, un giornalista che è al centro della vita notturna romana. È un personaggio che non so se è riferibile a un personaggio reale e concreto. Roma non ha un re di Roma, Roma ha un'infinità di ambienti, ogni ambiente elegge la propria categoria di dominanti e dominatori, cambiano, mutano, si elidono, sono fluttuanti e transeunti. L'idea del film di Sorrentino è una città parallela, una città inesistente, una città come vissuta dal sogno di persone che sono già morte, come quei film di fantasmi, che i fantasmi vivono assieme agli uomini, vedono la realtà degli uomini, la vedono come se loro fossero vivi. Infatti è una città vuota, senza macchine, senza abitanti, con degli scorci fantastici, surreali, con dei punti di vista, Roma vista da sotto i ponti, Roma vista dall'alto, Roma vista attraverso scorci notturni, fantastiche terrazze che affacciano sul Colosseo, luoghi indicibili, tesori nascosti, residui umani incredibilmente ancora sopravvissuti. Roma attraversata da santi, attraversata da mistiche, Roma attraversata da cialtroni, Roma attraversata da vecchie puttane in disfacimento, Roma attraversata da personaggi che mantengono ancora un'eco lontana di antichi poteri, antichi privilegi, ma che è stato talmente forte, talmente sedimentato, talmente concreto questo potere che, non facendo un cazzo negli ultimi 30 anni, ancora possono vivere una vita che noi nemmeno ci sogniamo. Io stesso ho conosciuto Roma negli ultimi 30 anni, da giovine emigrato con la valigia di cartone, arrivato a Roma soltanto con una finta raccomandazione di un zio cardinale che non esisteva. E ciò mi ha permesso di vivere, sopravvivere, anche abbastanza felicemente vivere e mantenere una famiglia. Pensate quanto spazio c'è, quanto grasso da grattare, da rosicchiare c'è in questa città. Beh, voi come la vedete Roma? Qual è il vostro punto di vista? O che voi siate romani, o che voi abitiate a Roma, o come Roma la vediate soltanto attraverso la rabbia, l'odio, l'esecrazione. È il luogo in cui c'è il ventre grasso l'Italia, in cui c'è la politica, in un patto stretto e ferreo con le forze più potenti, più occulte, da una parte la Chiesa, da una parte la massoneria, da una parte il potere della televisione, del cinema, dei grandi giornali. Insomma, come vedete questa città? O se voi siete romani, vi siete identificati in qualche maniera come inesistenze fluttuanti, come cornice nel film di Sorrentino? O avete altri esempi di Roma raccontata attraverso il cinema? Beh, oggi parliamo di Roma, vista dai romani e da quelli che Roma l'hanno vista solo in cartolina, o la guardano al cinema, o la guardano in televisione, o la colgono soltanto attraverso quell'odiosissimo, ostentato accento romano di tanti personaggi della televisione. Un altro per l'intervista. Mamma mia, ormai siamo un popolo di intervistati. Ma non li senti, come dico sempre a chi? Lascia stare. Ma voi sei sincero, ma chi se lo compra un libro che hai sentito la visione e le visioni, la galassia di Giep Gambardella? Ma è un titolo serio. E in questo paese, purtroppo, per farsi prendere sul serio, bisogna prendersi sul serio, Giep. Roma, ma che gli raccontiamo? Io ho scritto un solo romanzo 40 anni fa che non si trova neppure nelle librerie. Ma che cazzo dici? Che era un capolavoro assoluto all'apparato umano. Che vinse pure il coso, là, che vinse il... Oh, Bancarella, il Bancarella. L'Inter Bancarella, no? Ma sei tanto caro, eh? Ma lasciamo perdere. No, così lasciamo perdere. Sarebbe troppo presunto. No, non possiamo lasciar perdere. No, no, perché così mi metti in difficoltà. Perché io avrei firmato, avrei preso pure un anticipo. Quanto hai preso? 1500, ridaglieli. Ma come? Te li do io, 1500. A proposito, Roma fatta di leccapiedi, di personaggi marginali, di gente con le pezze al culo e comunque sopravvive respirando soltanto l'aria dei potenti e rosicchiando lentamente. Quanti episodi abbiamo avuto nelle cronache giudiziarie degli ultimi anni, di faccendieri, di uomini di piccolo cabotaggio che semplicemente stando alle spalle dei potenti, semplicemente trovandogli occasioni di felicità, di trasgressione, di uscita dalla noia del quotidiano, perché si annoiano tanto quelli che non hanno da fare un cazzo la mattina e la sera, devono soltanto vivere, vivono la notte, poi il giorno vanno a dormire quando gli altri s'alzano e vanno a affrontare la loro giornata. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Beh, anche tu sei in qualche maniera un provinciale all'assalto di Roma. Un meridionale trapiantato a Roma, insomma, alla ricerca disperata. Stai cercando di fare fortuna? Sì, sì. Mai trovata, però. Parliamo del film di cui stiamo trattando, che ha avuto anche molte critiche sfavorevoli, molti hanno arricciato il naso, dice ma che è la Roma dei Vanzine, Cinepanettoni, in realtà è il passo avanti rispetto a tutti i film che hanno trattato Roma, è il trionfo del Cafonal, di questa inesistente categoria di persone potenti che noi conosciamo attraverso le foto di Pizzi e le pagine da Gospia, ma che in realtà la gente vede soltanto come contorno del grande flusso televisivo giornalistico pettegolezzo. Sì, ma è anche qualcosa di più sottile, perché naviga sontuosamente con questa regia da Colossal con sguardo autoriale intorno al vuoto, al vuoto di queste situazioni trainate da Jep Gambardella, che appunto vive di queste cene continue. Abbiamo sentito la molto coreografata, abbiamo sentito la voce anche di Verdone, che come accennavi tu fa questa figura vicaria che cerca una legittimazione culturale. A un certo punto Servillo gli del dice Lampesello da Fusino, da Nepi, in cui tornerà, usa un linguaggio d'annunziano per certificarsi a questo opus magnum nel cassetto da anni, insomma, da personaggio becchettiano che vuole arrivare, vuole approdare. Nel momento in cui riuscirà ad approdare dopo 30 anni a Roma, una sorta di visibilità in questo teatro che gli procura l'amico, che deve pagare però a spese sue, dice anche un'ironia feroce. La luce deve pagare la corrente. Un'ironia pietrangeliana, cioè a tratti molto. Vive molto come un ficcante. Morto di fame in una stanza di studenti alla periferia, con il ciao attaccato al muro, ancora un vecchio motorino degli anni 70. Dettagli, la cura dei dettagli, infatti, è molto. Sì, è che molto... è rimasto indietro. Si è scopato 6 donne nella vita perché gliela presentate tutti Gambardella. Va dietro a una profumiera figa di legno che lo porta come autista, una scena terrificante, la riporta a casa la sera. Però è l'unico rapporto. Aspetta, ti dico, no, questa bisogna raccontarla. E lei dice: domani, caro, mi accompagni all'aeroporto? Dice: sì, certo, ti accompagno all'aeroporto. Dice: ma l'aereo quando parte? Fra 3 ore. Ci sono le 3 di mattina, queste 3 ore fammi salire su da te, perché lui, nonostante che gli fa lo chaperon, non ha mai avuto nessun tipo di approccio concreto. Dico: salgo su, dormo nel divano. Dice: no, guarda, mi dà fastidio mentre mi preparo la valigia qualcuno che mi guarda. Va a casa tua e mi riprendi. Dice: ma io abito sulla Prenestina, a 2 ore di strada. Allora lui reclina il sedile dell'automobile, si mette a dormire in macchina aspettando questa con cui non avrà nessun tipo di commercio carnale, ma si accontenta, respira l'aria. Sì, è un servo della greba metafisico, cioè è la apoteosi del servizio. Enrico, buongiorno. Ah, buongiorno, che piacere. Nicoletti, la ringrazio della possibilità. Io vorrei dire qualcosa di un po' più realistico. Io ho vissuto, sono di Genova, adesso vivo vicino a Venezia, per motivi di lavoro e di famiglia, e ho vissuto 9 anni a Roma e ho vissuto anche più al sud, Napoli, eccetera. Devo dire, generalizzando molto e con i limiti che le generalizzazioni comportano ovviamente, che parlando dei romani sono un bellissimo compromesso via di mezzo fra, diciamo, il freddo, parlando in senso di relazioni umane, il freddume del nord, l'eccessivo caldo del sud che rischia di diventare invadenza, e invece il vivi e lascia vivere romano, che direi è veramente ideale. Io sto generalizzando ovviamente, però... Sì, ma la protagonista qua è la città, parliamo della città, perché i romani sono... una circostanza del tutto accessoria in questa città, non esistono nemmeno più chi sono i romani, dove stanno, che fanno. È la città, è la sua eternità, la sua imperturbabilità, il suo mantenere il suo ventre marcio e putrefatto, che però allo stesso tempo è fantastico. È tutto un film sulla nostalgia. Lei in questi anni è come stato accolto dalla città? La città, senta, non sono i monumenti, non sono le strade, sono le persone, per quello che ho parlato dei romani. Io mi sono trovato molto bene e vedo che anche a livello di istituzioni, dove non arriva l'organizzazione, che magari funziona di più nel nord, arriva l'umanità. Cioè, classico l'esempio del del custode, dell'usciere, dell'ufficio dell'anagrafe, vestito in borghese, non si capisce che è uno che lavora lì, però appena capisce che è una persona, non sa dove andare, si alza, gli va incontro e dice, dica. Sì, ma lo fa per soldi, vuole la mancia, mica lo fa no, perché è buono. No, io sono genovese e non l'ho mai scucito una lira. Eh beh, perché lei è genovese, ma la volta dopo le avrà dato indicazioni sbagliate apposta. No, mi ha aiutato benissimo, sono riuscito a fare. Andiamo avanti nel nostro escursus sulla città di Roma, se no ci soffermiamo troppo sulla biografia di Enrico. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Dice direzione, metteci a Sacconi, che Antonini mi ha rotto veramente il cazzo. Volevo diventare il re dei mondani e ci sono riuscito. Allora, Jep Gambardella ci è riuscito. Anche lui viene dalla provincia campana, si è installato a Roma nella torre della città. Queste sono le sue riflessioni che fa camminando sugli argini del Tevere, che sono stati anche ripuliti, abbastanza bonificati dalle pantegane. L'estate ci sono delle belle bancarelle che fanno il kebab e la porchetta e si balla e si spaccia cocaina alla grande, quindi c'è di tutto. La mattina lui passeggia vestito da dandy, passano due romani che fanno la corsetta e quello è la sintesi. In questo viaggio al termine della notte seleniano che è citato nell'esergo iniziale, appunto, c'è una Roma che... Beh, sembri Verdone, abbassa il livello della situazione. Sì, ma però allora perché c'è come inizio, che quindi è una dichiarazione programmatica. Sì, cita Céline, ma... È una parola perché vuole forse dare la chiave di volta anche del tutto, no? Cioè, questo silenzio assoluto che è completamente legato all'immaginazione, perché è reale a Roma, che lascia emergere questa bellezza. È l'unica intermittenza in questa inquadratura meravigliosa in cui c'è lui che si accosta a questi tre che stanno facendo footing, c'è questa intermittenza del romano greve, che appunto dicono questa battuta... ferocissima, e lui va avanti e continua a passeggiare e ne coglie appunto una Roma che in realtà non esiste, perché con questo silenzio in realtà non c'è mai più stato a Roma. Voi non valzate la mattina all'alba, è così Roma. Io per anni, quando facevo le trasmissioni al mattina presto, sì, camminavo a piedi, passavo avanti al Pantheon e vedo soltanto le salme dei re defunti e le salme dei barboni addormentati accanto, più grande esempio di democrazia che ho visto in vita mia. Non c'era nient'altro, soltanto gabbiani che si mangiavano carogne di piccioni. Maristella, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, è un piacere intervenire nella sua... Lo faccio allora, che si prenda allora... questo piacere nel primo diritto. Grazie. Allora, anche Angelo e Maristella sono fortunatissimi, perché ho il privilegio di abitare in un punto strategico che è l'ex silos della ex Pantanella vicino Porta Maggiore. Ho una vista mozzafiato. Angelo chi è? Angelo chi è? Il fortunato compagno? Esattamente. Ah. e la mattina e la sera... Sulla tangenziale è un postaccio, che c'è di bello? No, è un postaccio, no, non lo è, la invito a venire a casa nostra. Cioè c'è un traffico bestiale, cioè avete vetri quadrupli perché c'è un casino mortale. No, ma noi non siamo in adiacenza alla tangenziale, il nostro non è... Fantozzi il abita sopra la tangenziale quando salta al volo sull'autobus. Sì, è vero, confermo. Però noi siamo privilegiati perché siamo in un punto strategico. Come avete fatto a ottenere quella casa? Avete amici nel partito? Assolutamente no, infatti siamo forse un esempio atipico. C'era una... L'avete ereditata da qualcuno, l'aveva occupata? No, è stato il fato. È il fato, a Roma non esiste il fato, o preti o gente del partito. Cioè ecco, sono l'esempio tipico che può testimoniare che nella vita c'è forse un disegno superiore. Sentiamo, che questo disegno superiore come ha fatto a consegnarvi le chiavi di questo paradiso? Il disegno superiore è stato il fatto che ne avevamo prenotata un altro appartamento che era sito al quinto piano. Prenotato, dove si prenotano gli appartamenti? L'ufficio vendite. Andate a comprarla. Sì. Nel 2004, era l'anno 2004. E poi? E poi sostanzialmente c'è stata la rinuncia del primo che aveva prenotato questa torretta. Che sta girando con i pollici fratturati da allora. No, perché non se la sentiva. Certo, è stato un investimento dal punto di vista economico non indifferente, siamo indebitati fino al collo, però anche non avendo potuto nella nostra storia, appunto, non avendo strutture, non essendo strutturati come dicono alcuni, abbiamo conquistato un posto non privilegiato, di più. Quindi fate vita di terrazza. Questa casa vi permette di avere una vita sociale che è oltre le vostre possibilità? Assolutamente sì. Ecco, stiamo vivendo una vita che in realtà non ci saremmo mai potuti neanche sognare. Però è vero, Marissa, io conosco tanta gente che avendo una bella casa che ha avuto per percorsi lineari o traversi, fa una vita al di sopra delle sue possibilità. Poi magari ti dice, senti, c'è da prestarmi 50 euro, te li ridò domani, e non li rivedi mai più. Però hanno delle case fantastiche, vedono i personaggi del cinema, dello spettacolo, vivono la vita, vedono gente. No, non siamo così mondani. No, ma Roma lo permette questo però. No, ma noi invece viviamo queste cose con i nostri amici, con i nostri parenti, quando è possibile, quando anche loro possono. E godiamo questa cosa magnifica che è vedere Roma dall'alto, vedere il volo degli uccelli dall'alto, vedere le chiome degli alberi e dei platani di Roma dall'alto, che è una cosa spettacolare. Bisogna stare attenti che oggi i gabbiani sono belli grossi, e quando i gabbiani si lasciano andare in temperanze intestinali non è un passerotto. Abbiamo anche le cornacchie, sì, va bene, chiaro Maristella, basta, Franco. Buongiorno, sì. Io a volte vado a Roma per lavoro, ho visto anche il film, e devo dire due cose mi colpiscono di Roma. Da una parte la grande cortesia dei romani. Ma quando... Scusate, ma che città ha attraversato lei? Mi faccia capire, perché la grande cortesia dei romani è l'ultima delle qualità, onestamente. Proverbiale. Cioè, romano ti manda a fare il culo soltanto se incroci la sua ombra, scusi. Ma... Non è così, il romano conversa di qualsiasi cosa, anche... Vabbè, chi non ce la fa una mazza la mattina e la sera, certo, se lei dà spago agli sfaccendati è chiaro. No, non è così, anzi è una forma anche di solidarietà quando hai necessità di un'informazione, hai necessità... I romani sono disponibilissimi. Ognuno ha una Roma interiore, è chiaro, insomma. Questo è quello che è la mia esperienza. E l'altra parte della mia esperienza, che non coincide con quella del film, di Sorrentino, è che io ho girato di Sorrentino, della grande bellezza e anche la grande bruttezza che si trova a Roma girando... io a volte ho preso uno scooter a noleggio e ho girato così intorno a Roma e si incontrano veramente... Beh, le periferie è chiaro sono orribili, è il frutto orribili, della speculazione, sì. Cioè quelli che lei vede colonizzare le terrazze romane con vista sul Colosseo sono i figli di quelli che hanno costruito le periferie romane guadagnando fantamiliardi, è chiaro che da qualche parte i soldi devono uscire. Molto trascurato anche Porta Maggiore, che hanno preso, sarebbe un posto di quelli belli, ma è lasciato in una condizione veramente... Ecco, lei cosa ha trovato invece in quel film che in qualche maniera corrispondeva alla sua esperienza? Che è un film onirico, fantastico, è una Roma che chi attraversa Roma per lavoro, per impegni quotidiani, non si accorge di quelle cose. No, è vero, ad esempio mi è piaciuto che abbiano valorizzato il fontanone, mi sembra che sia quello che compare all'inizio, no? Quindi invece sì, fontanone su del Giannicolo. E lì hanno fatto vedere il fontanone, appunto Giannicolo, il Pincio, anche poi alcuni posti che effettivamente non ho riconosciuto, forse non ho mai visto, perché poi il film li fa vedere giustamente non come un documentario ma come un'immagine. Sì, vedere dei particolari, bisogna averli conosciuti e visti, se no non ci se ne rende conto. Giuseppe Sanzon. Ma uno dei momenti chiave del film è il rapporto fra il personaggio di Servillo e la Ferilli, che qui trova una dimensione di ballerina di lap dance in decadenza meravigliosa in questa via Veneto che ha perso ogni aura mitica felliniana ed è, come appare adesso, completamente svuotata. Rimangono i vecchi solitaria. Night con tutte donne dell'est, per i turisti giapponesi, per quel poco residuo ancora di voyeurismo da night che non esiste più, li portano così a spennarli, a dargli spuma di champagne a prezzi fantastici. Beh, ci fermiamo un istante, diamo le informazioni della borsa, poi continuiamo in questa Roma inesistente vista dagli occhi e dalle esperienze di chi ci ascolta. Melog, la realtà condivisa. Sa qual è il suo guaio? Di avere troppi soldi. E il tuo di non averne abbastanza. Intanto eccoci qua tutti e due. Questo non è mica un guaio. Siamo rimasti così in pochi ad essere scontenti di noi stessi. Cosa ha fatto qui? Niente. Senta, lei non dovrebbe preoccuparsi. Con tutti i quattrini che ha, anche se casca, casca in piedi. Credi proprio? Ah, sì. Io non riesco neanche a reggermi in piedi. Ci vorrebbe una carica vitale che io non ho per girare. 80024, 0024, stiamo parlando tra le tante Rome che ognuno ha nel proprio cuore, nella propria esperienza, nella propria visione distorta. Esiste una Roma reale? Probabilmente non esiste, stratificata negli infiniti strati geologici di questa città, che è sempre ricostruita l'una sopra l'altra, però mantenendo le costanti. Questa idea che viene ancora chiamata città eterna, perché in sé gova una grande illusione che possa esistere l'eternità. E quindi l'eternità viene rappresentata attraverso dei rimasugli, dei feticci, dei cadaveri, delle mummie. Roma è una città fortemente putrefatta nelle sue radici, nelle sue origini, nella sua espressione più sublime. La stiamo vedendo attraverso la lettura che ne ha fatto Paolo Sorrentino nel suo ultimo film, La grande bellezza. Protagonista è un giornalista, Jep Gambardella, Tony Servillo. Abbiamo sentito adesso La dolce vita, un'altra lettura, una lettura anche allora fece scandalo, anche allora era una lettura di Roma, quella della dolce vita di Fellini, il cui protagonista, in cui la deità psicopompa era sempre un giornalista, Marcello Rubini, di tutt'altro tipo, con molto meno carisma, più stralunato e meno realisticamente consapevole del mondo che stava attraversando. Sì, è il grande spettro che c'è dietro La grande bellezza, è proprio La dolce vita. Qui abbiamo ascoltato un frammento di dialogo, c'è questa sorta di bilancio esistenziale. C'è una cupezza maggiore, più radicata, ci sono figure come l'intellettuale Steiner che finirà col suicidarsi nella dolce vita, cose che nella vacuità leggera e necessaria però della grande bellezza mancano. C'è uno strato di superficie molto forte, molto radicale, probabilmente legato più ai tempi. La dolce vita è un film del 60, anche con tutto il carico, in cui gli intellettuali si sentivano anche protagonisti violenti di una rinascita, potevano pensarsi tali. Ma pensa, erano già depressi allora, che tutto era da costruire, come potevano essere poi depressi dopo, a distanza? Cominciavano a capire come sarebbe andata a finire. Sì, però nella grande bellezza l'unico suicidio del ragazzo con qualche problema, probabilmente di depressione, di tipo psichiatrico, capito, che si suicida perché si identifica troppo in offre il fianco a una scena bellissima, che è quella in cui Servillo propone la coreografia da funerale alla Ferilli, appunto a questa ballerina di lap dance, e gli spiega come non si debba piangere, perché è immorale piangere oscurando il pianto dei parenti, e poi alla fine piangerà lui per chissà quale motivo. C'è questa dislocazione dal sentimentalismo che è molto affascinante, molto interessante. Beh, ce lo dice lui stesso. Tony Servillo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Servillo, perché Gambardella piange quando prende la bara sulle spalle, di cui probabilmente non gliene importava nulla del morto, perché era uno dei tanti personaggi che gli giravano intorno, secondo lei? Ma guardi, mi sembra uno dei movimenti che rendono emotivi, che rendono affascinante questo personaggio. Sembra cinico, ma in realtà è un sentimentale. E i sentimenti gli occorrono a volte per sostenere il cinismo per frenare la piena dei sentimenti. È un uomo che si abbandona alle cose nel momento stesso in cui si abbandona, se ne ritrae. Questo è il movimento che a me personalmente ha interessato nella lettura della sceneggiatura, e spero che sia convincente nel film. Questo è, come dire, il movimento, l'emotività che c'è. Diciamo che è lo spirito guida più adatto per descrivere questa porzione di Roma contemporanea, che in parte è conosciuta perché molti dei personaggi che la popolano sono personaggi pubblici, ma allo stesso tempo c'è qualcosa di intimo, qualcosa che conosce soltanto chi poi attraversa quella città, sì, in quella particolare circostanza notturna. Sì, è vero, è vero. Vero quello che dice, anche se appunto poi non si riferisce soltanto alle persone che sono protagoniste di certi riti sociali. È un uomo che appunto si dà e si ritrae, si offre completamente con questo atteggiamento da flaneur alla vacuità di certe feste inutili, stupide, che girano su se stesse, e poi invece ritrova dei momenti di intimità sciacquandosi il viso all'alba in una passeggiata, così, sciacquandosi il viso a una fontanella in una passeggiata magnifica di un'alba romana. Cioè questo movimento tra il pubblico e l'intimo che racconta lo smarrimento anche, no? Che vive lui e che forse viviamo anche noi quando fa. Però bisogna capire che le piaccia molto questo personaggio, si è sentito molto ben collocato dentro. In qualche maniera lei attraversa, come tutti noi che siamo venuti da città che non fossero Roma, più provinciali rispetto alla grande capitale, ha avuto un contatto di tentativo di essere accettati da questa città. È andata molto bene, altri va meno bene, però l'impressione è questa. Ma guardi, io sono molto innamorato di questo personaggio per l'occasione che mi ha offerto dal punto di vista professionale, interpretativo, senza togliere a questo l'emotività anche, che i sentimenti, che... ma io resto vivo in provincia, resto un provinciale, la seduzione di Roma la racconta Jepp, io spero di averla raccontata da attore, insomma, poi... Però l'aspetto più umano, l'aspetto più umano di Gambardella è proprio questo suo ricordo di adolescenza che non ha mai cancellato, la prima chiave emotiva in cui si vede commosso, e quando si ricorda questa sua fidanzata con cui non ha mai completato, direi che al di là di questo sentimento è molto giusto quello che lei dice, però c'è una scena in cui credo che questo che lei dice sia più efficace per quanto riguarda Gambardella, quando va a fare visita alla mostra di quell'artista che si è raccontato nel corso di tutta la vita attraverso le fotografie. Io credo che quella ricapitolazione dell'esistenza da bambino ad adulto lo impressiona profondamente, e lì è un momento di commozione che insieme ai rientri all'alba, mattutini, a cui accennavo prima, Jepp mostra quell'aspetto intimo di sé che cozza invece con quella maschera sociale che invece indossa alle feste, alle chiacchierate vuote. Ma poi è fantastico che questo avvenga, questa sorta di svegliarsi di fronte allo scorrere di una vita nel Ninfeo, che è il teatro del Premio Strega, che è una delle occasioni romane più schifosamente salottiere che esista. Beh, insomma, quello è un caso. Beh, non credo, perché sai, sono vari livelli di lettura in questo film. Il cinema mette insieme cose che poi sono imprevedibili anche a chi lo fa, no? Questo accade molto spesso, offre letture che possono andare in tante direzioni. Senta, una delle grandi scoperte di questo film, fra i personaggi che ci girano intorno a Gambardella, è proprio Sabrina Ferilli. L'abbiamo scoperta coraggiosissima, finalmente fuori dal ruolo della fatalona, l'eternamente bella, anzi, fa la parte di se stessa, come anche Serena Grandi, che mostra tutto il soddisfacimento, la sua biografia reale e concreta dell'ex bella che sniffa cocaina sopra un tavolo di cucina. Ecco, questi personaggi le sono piaciuti? È stato importante per lei averli vicino? Perché sono totalmente diversi rispetto alla prassi. Guardi, al di là di un... come dire, credo che siano attori, nel caso di Sabrina Ferilli credo che offra un'interpretazione magnifica, è uno dei pochi momenti in cui Jepp riesce forse a intravedere dei lampi di bellezza sotto la tanta bruttezza che la nasconde, e come accade, ed è una metafora, il bellissimo personaggio di Sabrina interpretato così bene da lei, è proprio una metafora della bellezza, se è vero come è vero, qualche grande scrittore, credo Soldati, abbia detto che appena la conosci la perdi, no? È un attimo questo incontro con la Sabrina Ferilli del personaggio di Jepp, e poi lei muore, scompare improvvisamente dal film, e dal momento in cui lei scompare si crea come una zona d'ombra sul film. Quindi sono d'accordo con lei, e la Ferilli ha offerto un'interpretazione profonda, insomma, molto bella, che ha colpito tutti. La ringrazio molto, Tony Servillo, e passiamo a altri punti di vista di persone che sono passate per Roma, vedono Roma e la vedono anche con occhi molto diversi rispetto alla maggioranza delle persone che attraversa questa città. Chu Fen, buongiorno. Salve, sono Chu Fen, sono cinese, ho 36 anni e ho vissuto a Roma per una decina d'anni. E vabbè, non, niente a che vedere con il film La Grande Bellezza. Che lei ha visto? No? Come? Che lei ha visto? No, non ho ancora visto. Stamattina ho letto l'articolo di Dago Spia e ho visto questa festa, no, molto mondana, dalla solappia antica della villa nominata Furibonda, della come si chiama la nobile. La Federici, che è rimasta male perché ha girato delle sequenze, esatto, Sorrentino con i veri protagonisti del Cafonal Romano, e poi la tagliate sadicamente, esatto. E questi speravano di essere rappresentati e non si vedranno, quindi Marisella Federici ha fatto, esatto, la grande festa degli sfigati che hanno recitato se stessi e poi sono stati tagliati fuori. Beh, però vede, è importante che la ascoltatrice cinese abbia colto questo sadico paradosso. Sanson. Beh, c'è anche un'altra scena bellissima dei nobili in affitto, i Colonna, che sono in questa casa diroccata e guardano una trasmissione di Sky che fa vedere come si restaura una casa, e si presentano alla cena come nobili da presentare a questa santa orribile nella sua infinita misericordia, che ricorda moltissimo Madre Teresa di Calcutta. Sì, ricorda lei proprio, sì, lei, sì. Una mistica, una santa che parla con gli uccelli, arranca sulla scala santa, non si può nemmeno cosa abbia di santo, non si capisce perché. Questa evocazione mangia radici ma siede nelle terrazze romane a pranzo con cardinali corrotti, con il peggio del peggio del peggio. La miseria si vive, non si racconta, dice. No, questo andamento a frammenti, a situazioni, è uno dei punti di forza del film, questo scivolare appunto attraverso Gambardella in situazioni e contesti diversi che però sono restituiscono un senso molto profondo. Melog, la realtà condivisa. Che Dio mi stramaledica, ma perché? Ma perché vi frequento io? Privilegiati depressi, eccoli, fanno pure più schifo dei privilegiati contenti. Non se ne può più, non se ne può più di te. E anche di Sergio, bello che è morto. E soprattutto non se ne può più del dolente erudito, il quale, si capisce, ce l'ha solo lui le idee giuste. Però, poverino, egli è afflitto, è impedito da mille meccanismi ostili, perché altrimenti figuriamoci, chissà come metterebbe tutte le cose a posto egli, lui, questo inesorabile, e fatemelo dire perché sarò schiatto, questo implacabile stronzo. Ma di chi parla? Di me! Non vi voglio più vedere, non vi Beh, voglio devo più, dire non che negli anni 80, 1980, Ettore Scola con La Terrazza ribadisce sempre lo stesso concetto. Le terrazze romane sono piene di stronzi. Sì, questa è la messa in scena livida appunto dell'80 di un maestro come Scola, circondato dai colonnelli della commedia italiana, dai grandi sceneggiatori. Era un cinema grande che mostrava la sua agonia e raccontava queste terrazze. Questo è un personaggio che per esempio non c'è nel film di Sorrentino, ma è il politico sì, ecco, del PC. Adesso c'è un'ascoltatrice, Angela, fermati un attimo, Angela. È la sua domanda, questo sì, sta dicendo. È proprio la mia domanda. A me il film è piaciuto moltissimo e io sono romana, anche se non l'ho vista nella mia città. E mi sono domandata proprio questo: dove sono i politici? Perché si vedono per Roma è una presenza palpabile, concreta. Esatto, molto concreti. Cioè il centro è pieno di auto blu, la sera tutti i ristorantini intorno è pieno di mignottone assieme a questi signori, tutti con la loro grisaglia d'ordinanza, tronfi, fieri, circondati da leccaculo. Cioè non può non vedere il politico se attraversa Roma. Esatto. E chissà perché non l'ha visto. Ha fatto una scelta, sghemba, che c'è nel finale, quando appunto c'è il latitante che viene arrestato e dice: siamo noi che stiamo portando avanti questo paese, se vogliamo, con un traverso riferimento politico. Però a parte questo, è una scelta di... Tra l'altro, di uomini politici con casa con vista sul Colosseo sono, diciamo, sono segnati dalla storia inconsapevoli giudiziaria. Inconsapevoli. Quindi aveva questo politico con cui viveva accanto, di cui notava i vestiti di grande taglio. Addirittura una notte c'è una cosa strana, cioè lui con una donna, con un energumeno, sì, un gioco a tre, voyeuristico, fantapolitico, e a un certo punto poi lo portano via in manette. Aveva il fisico del ruolo dello stalliere. Sì, lo portano via in manette. Poi è l'unico accenno alla politica. Per lei è sufficiente, Angela, questo accenno? No, mi è mancato qualcosa. Sono uscita contenta, ma una nota scolata. Una scelta. Mancava l'auto blu. Tanti artisti, preti, pseudo-artisti, intellettuali più o meno pensanti, mancavano proprio i politici. Diciamo, sono toccati soltanto quando cita, e il riferimento fa venire i brividi, la scrittrice giornalista che ha avuto molti contatti con la politica, che ha scritto libri e che si vanta di avere una grande conoscenza del mondo, aver fatto il 68, e quando Gambardella dice: ma come, tu che tu sei sempre stata nel partito, le occupazioni le facevi dentro i bagni con la fila di gente davanti, i libri che hai scritto perché era la casa editrice del partito, la storia che hai scritto perché stavi insieme a un importante del partito, sei una fallita. Ecco, quel caso sì, c'è in realtà la presenza del partito, che poi ha cambiato nome, ma è sempre rimasta quella sorta di limacciosa idea di superiorità, perché gli altri erano talmente grezzi e volgari che erano totalmente impresentabili. Ritorniamo un attimo, perché l'ho tenuta in ascolto, l'ascoltatrice cinese, Chue Fen, mi dice veramente per lei cosa è stata Roma, di tutto quello di cui stiamo parlando, come li vede con gli occhi una ragazza che viene dalla Cina, un paese e un mondo così distante, così lontano, ci sono dei punti di contatto? Sì, vabbè, cioè, magari presso adesso la coscienza, la consapevolezza, no, della realtà di Roma, invece quando ci vivevo ero una studentessa, quindi non mi rendevo conto. Dove studiava? Lì, in periferia, a Prenestina, in periferia a Roma, quindi la realtà è tutta un'altra, no, molto semplice. Io poi studiavo, cioè, scuola, biblioteca. Quello quanti anni fa questo? Questo io ero 36, ho vissuto per decina d'anni, parlo di 15 anni fa, 15 anni fa, sì. Tanto che mio fratello mi diceva, tu da 10 anni che vivi a Roma nessuno ti conosce perché fai questa vita, per dire, quindi adesso presso... No, per dire, 15 anni fa, onestamente, le donne cinesi ne erano pochissime in giro. Adesso finalmente la comunità cinese è esplosa, sono bambini, donne, ma 15 anni fa se ne erano veramente poche, era una comunità molto riservata, aveva le sue attività. Sì, sempre riservata, sempre molto riservata, molto, ma magari più la seconda generazione, no, che si è dimostrata una mentalità più aperta, però, cioè, ripeto, miei fratelli, i miei genitori sono sempre molto appunto chiusi, no, rispetto... Cosa fanno? Hanno attività a Roma? Ancora? Sì, loro sono, come si dice, venditori ambulanti. Sì. Diciamo, fanno commercio, sì. Sì. E lei invece cosa fa, se le posso chiedere? Io purtroppo non mi sono laureata, ho studiato all'Orientale, però poi lavoravo e studiavo, però faccio l'interprete e sempre alla ricerca, perché qua a Cosenza purtroppo sono penalizzata come posizione, mi chiamano da Milano, da Bologna, però poi dicono, ah, Cosenza, no. Beh, c'è un'importantissima università a Cosenza. Però non hanno la facoltà cinese, no. Beh, però avranno rapporti comunque con la Cina, ci sono informatici, ingegneri, filosofi, quindi secondo me quello può essere un buon segno. Grazie, Chue Fen. Paolo? Sì. Sì. Sì, ciao. Io volevo fare degli accenni cinematografici alla città. Sansone è qui che aspetta per ribadire. Con L'Imperatore di Roma, Bambulè e, vabbè, Amore Tossico, Sfilone stesso. Amore Tossico no, è Ostia, non è Roma. No, sì, lo so, però... Stai parlando di una Roma underground, proprio di un altro lato di Roma. Però Nico d'Alessandria. Sì, bravissimo, è un capolavoro assoluto quel film, che fa vedere degli spaccati romani degli ultimi anni, non proprio neorealistici, degli anni 60, del boom, o anche anni 40, 50, ma anni 80, zone come San Giovanni. Beh, questa è la visione di Andrea Pazienza, sì. È una visione che ormai, sì. Pazienziana, molto datata, che non ha proprio assolutamente nessun tipo di esistenza nel film di cui stiamo parlando. Grazie Sansonna, grazie a tutti, ci sentiamo lunedì a Roma forse.